24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, ben trovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano l'accordo all'Eurogruppo per l'aumento dello scudo salva euro portato a 800 miliardi. Intanto la Bundesbank rompe il fronte di unità europeo, non accetterà più bond emessi dai paesi a rischio. A Madrid il governo Rajoy vara una manovra storica per evitare un buco nei conti pubblici, mentre in Francia vasta operazione contro le cellule integraliste. Infine una curiosità, è sotto la media europea la percentuale di popolazione italiana che vive nelle zone urbane. 800 miliardi, a tanto ammonta la potenza di fuoco che l'Eurogruppo ha deciso di mettere in campo a difesa dell'euro. Il via libera nel vertice informale a Copenaghen. La somma nasconde in realtà una quota di denaro già stanziata che corrisponde a 300 miliardi. 200 arrivano dal vecchio fondo salva stati IFSF, la novità che resterà in vigore anche dopo luglio, altri 100 da prestiti bilaterali. I soldi freschi sono insomma rappresentati dai 500 miliardi del nuovo fondo salva stati ISM, che sarà permanente ed entrerà in vigore a luglio. Positiva la reazione della direttore generale dell'FMI Christine Lagarde, che ha sottolineato come il rafforzamento del firewall europeo aiuterà il fondo monetario a reperire risorse supplementari. Il varo del nuovo scudo protettivo dell'Eurozona è stato però guastato da una polemica sorpresa tra il leader dell'Eurogruppo Juncker e il ministro austriaco delle finanze Maria Fekta, la quale ha rivelato ai reporter i risultati dell'incontro prima della conferenza stampa ufficiale. Il risultato è stato la cancellazione della conferenza stampa stessa. Il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble ha comunque definito convincente e sufficiente il nuovo firewall europeo. Proprio dalla Germania è arrivato venerdì sera l'annuncio a sorpresa secondo cui la Bundesbank non accetterà più i bond emessi dalle banche e garantiti dai titoli di Stato di Grecia, Irlanda e Portogallo, diventando così la prima banca centrale dell'Eurozona a proteggere il proprio bilancio dai rischi dei paesi in difficoltà, rompendo di conseguenza il fronte di unità che aveva retto anche nei mesi più difficili della crisi. A riferirlo il Wall Street Journal, che cita una portavoce della banca centrale tedesca. La decisione riflette le preoccupazioni per l'allargamento della gamma delle garanzie accettate dalla BCE per far fronte alla crisi dei debiti sovrani. Intanto la Spagna vara una manovra storica per spegnere il rischio conti pubblici. Sentiamo il servizio. Quella approvata dal governo spagnolo conservatore è la manovra più pesante della storia democratica del paese. Una manovra di oltre 27 miliardi di euro per il solo 2012, che comprende nuove imposte per le grandi imprese per un totale di 12,3 miliardi di euro e taglia la spesa di tutti i ministeri di circa il 17%. Non vengono modificate invece le aliquote di IRPEF e IVA che già erano state alzate nei mesi scorsi. Prevista una sanatoria per i capitali che rientrano dall'estero. Come ha detto il ministro del bilancio Cristóbal Montoro, si tratta di misure dure, ma al tempo stesso necessarie per rispettare gli impegni di risanamento concordati con l'Unione Europea, dopo tante polemiche e difficili negoziati. Oltre che imprescindibile, ha detto Montoro, per ritrovare credibilità sui mercati. La Spagna, dopo aver sforato gli obiettivi di deficit nel 2011, deve infatti cercare di ridurre dall'8,5 al 5,8% del PIL il disavanzo complessivo di bilancio entro dicembre. Secondo gli analisti, per Madrid sarà molto difficile rispettare gli impegni presi con Bruxelles e la fase di recessione che la Spagna sta attraversando potrebbe rendere necessari altri duri interventi straordinari. Luca Veronese, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Siviglia. Giornata positiva per le borse europee, quella di venerdì nella seduta che ha chiuso il primo trimestre 2012 al termine di 7 giorni difficili. I listini hanno beneficiato del rafforzamento del fondo salva stati deciso dall'Eurogruppo e dal recupero di alcuni tra i titoli più penalizzati di recente. Piazza Affari ha chiuso con un più 0,45% sul FTSE MIB. Per l'Unione Europea garantire la possibilità di una seconda chance alle imprese e ai cittadini che falliscono è una necessità primaria. Nel 2010 sono state 220.000 le aziende che hanno portato i libri in tribunale, 600 al giorno. Per questo la Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica per determinare se i regolamenti attuali, vecchi ormai di 12 anni, debbano essere rivisti per dare sostegno alle imprese e rafforzare il mercato unico. L'Italia ha già fatto progressi impressionanti, ma ora deve procedere rapidamente all'adozione di ulteriori riforme per ristabilire la fiducia nella sua competitività, così il presidente della Commissione Europea, Giuseppe Barroso. Ora parliamo di giustizia, restando in Italia. A Roma il governo ha aperto ai partiti, ma è arrivata la bacchettata di Bruxelles, come ci spiega Vincenzo Miglietta. Sulla giustizia, governo e maggioranza procederanno all'insegna della trasparenza. Questo è il risultato dell'incontro di questa mattina tra i capigruppo dei partiti che appoggiano il governo Monti e il ministro della giustizia Paola Severino. Tra i temi in agenda le intercettazioni, la responsabilità civile dei giudici, più in generale una maggiore efficienza della macchina della giustizia. Nessun inciucio dunque, per utilizzare le parole della capogruppo del PD al Senato Anna Finocchiaro. Non procederemo a colpi di emendamenti, garantisce il ministro Severino. Sentiamo. Abbiamo varato un metodo e sul quale siamo stati tutti perfettamente d'accordo, il metodo del confronto. Noi stiamo per affrontare delle riforme che, non vorrei esagerare definendo epocali, ma sono delle riforme estremamente importanti per il Paese, come quelle relative ai delitti di corruzione, come quelle relative alla responsabilità del magistrato, come quelle relative alle intercettazioni telefoniche. Farlo a colpi di emendamenti e di subemendamenti non giova a nessuno. Si tratta di materie delicate che devono trovare una loro collocazione in un sistema e dunque vanno fatte in maniera concordata. Sì, al metodo del confronto dunque, spiegano governo e maggioranza. Mi auguro che si trovi una sintesi, commenta il presidente del Senato Schifani. Ma che il pianeta giustizia abbia bisogno di un intervento lo evidenzia anche il vicepresidente della Commissione europea e responsabile per la giustizia, Viviane Reding, che dice: con 5,5 milioni di cause arretrate, quello italiano è un esempio di giustizia negata, per questo serve una riforma. Il negoziato per l'ingresso della Serbia nell'Unione Europea inizierà entro l'anno, ad affermarlo il presidente della Repubblica Serba Boris Tadic da Trieste. Ora la cronaca dall'estero: 19 arresti e fucili Kalashnikov sequestrati, questo è il bilancio di un'operazione diretta a smantellare organizzazioni integraliste islamiche in Francia. Parla alla radio di Stato francese il presidente Sarkozy e comunica che l'operazione di questa mattina è solo l'inizio, ne seguiranno altre. Il messaggio, dai detrattori visto come l'ennesimo spot da campagna elettorale, in realtà entra nel cuore di una Francia alle prese con la paura, a più di una settimana dalla morte del terrorista Mohamed Merah, che ha ucciso 7 persone in 3 attentati. Stamattina, in un blitz super organizzato tra servizi segreti e teste di cuoio, sono stati arrestati 19 islamici provenienti da aree radicali. E che ce qui s'est passé ce matin va continuer. Il y aura d'ailleurs d'autres opérations qui continueront. Dopo la morte di Merah il 22 marzo, il presidente Nicolas Sarkozy aveva chiesto alla polizia di procedere alla valutazione della pericolosità di persone note per avere legami o simpatie con l'Islam più radicale. Per questa stessa ragione, 6 predicatori radicali che dal 6 al 9 aprile avrebbero dovuto parlare al congresso dell'UOIF, l'organizzazione vicina ai fratelli musulmani, non entreranno nel paese. Cristina Carpinelli, Radio 24. Il Sole 24 Ore. Si è dimesso il fisico Antonio Ereditato, il coordinatore della ricerca internazionale, i cui dati lo scorso settembre indicarono i neutrini come più veloci della luce. Il dato risultò poi sbagliato a causa di una anomalia nel funzionamento degli apparati utilizzati per misurare la velocità dei neutrini. Sentiamo il commento di Federico Pedrocchi. Ma insomma, l'entusiasmo anche di noi tutti comunicatori era stato forte qualche mese fa, poi dopo purtroppo le cose sono precipitate. Si è scoperta attraverso indagini successive e anche esperimenti un'anomalia che però non era di questi mesi, era un po' vecchia, un po' come dire abbiamo una macchina che improvvisamente fa i 245 km orari mentre invece ci aspettiamo che faccia 240, però scopriamo che nel 2008 avevamo già avuto qualche problema col contachilometri. È un po' questo che è venuto fuori, cioè già nel 2008 c'era un'apparecchiatura, un passaggio insomma che dava problemi, bisognava capirlo prima. Certo, data la portata di questa scoperta ci voleva più cautela, insomma se i neutrini andavano più veloci della luce, che ti devo dire, anche la dichiarazione dei redditi e la ricetta del pollo allo spiedo cambiavano, restavano più la stessa, ci voleva più cautela, quindi queste dimissioni di Antonio Ereditato credo che siano giuste e comprensibili. L'hanno chiamata Generazione Euro perché rivolta a chi la lira non l'ha mai conosciuta o quasi. Si è conclusa venerdì la settimana di educazione finanziaria promossa dalle istituzioni europee, dal governo italiano e dall'ABI. Giovanna Boggio Robutti, responsabile del programma di Patti Chiari. La settimana dell'educazione finanziaria di Roma direi che è andata benissimo, oggi siamo arrivati all'ultimo giorno, abbiamo avuto quasi 450 bambini delle scuole primarie e circa 700-800 delle scuole invece medie. Credo che sia facile dire che sono in effetti interessatissimi a questo argomento, che parte da un concetto di cittadinanza consapevole per arrivare a dire che l'educazione finanziaria, così come l'educazione alimentare o l'educazione alla sicurezza stradale, sono degli elementi ormai indispensabili del bagaglio culturale di un cittadino consapevole, tanto più per i cittadini del domani. Generazione Euro è il nome di una grande iniziativa che è stata promossa dal Parlamento europeo con la Commissione europea, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tantissimi enti davvero importanti del nostro paese, per ricordare che quest'anno ricorrono i primi 10 anni della moneta unica europea. Quindi il cappello di questa settimana di lezioni, abbiamo parlato di quelle per i bambini più piccoli Explora, di quelle per i bambini delle medie a Palazzo Altieri, ma ci sono altre sedi come quella del Parlamento della Commissione europea che sono aperti questa settimana alle lezioni. Si parla di Europa, si parla di cittadinanza europea e come sempre anche di educazione finanziaria. In Italia la popolazione che vive in province urbane è del 36% contro il 41% della media europea. La maggior parte degli italiani vive invece in province considerate intermedie, il 20% in quelle rurali. Questo è il quadro che emerge da una serie di dati pubblicati da Eurostat. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa. In collaborazione con Euronet.